A bordo campo di Dario Ricci. Una Coppa d'Asia del 2004, una Coppa del Golfo del 2007, un campionato turco e una Coppa di Turchia con il Fenerbahçe. Tre Coppe d'Inghilterra 2007, 2009 e 2010 con il Chelsea e poi anche una finale di Champions League nel 2008. Insomma, quello che sto leggendo non è il curriculum di Didier Drogba o di Andy Shevchenko o uno dei campioni del calcio attuale, ma è il curriculum professionale dell'ospite di oggi di A Bordo Campo. Allora, benvenuto al nostro microfono, o meglio, bentornato, perché è un nostro caro e vecchio amico, al professor Stefano Tirelli. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, perché Stefano Tirelli oggi ospite a bordo campo? Perché parliamo di preparazione atletica, preparazione fisica legata al calcio e non solo, allo sport in generale, allo sport di alto livello, perché Stefano Tirelli, come ricordavo sinteticamente, citando solo alcuni dei trofei vinti anche grazie alle sue metodologie e alle sue mani, è preparatore atletico ed è stato preparatore atletico di molti club nazionali di altissimo livello. Faccio riferimento solo al Chelsea di José Mourinho, al Ghana durante i campionati del mondo di Germania 2006 e poi negli ultimi campionati del mondo di Sudafrica 2010 alla nazionale inglese di Fabio Capello. Beh, Stefano, tanti tecnici con cui confrontarsi e quindi immagino tante metodologie di lavoro differenti, no? Sì, sì, la cosa interessante è che ognuno di questi personaggi ha le sue caratteristiche, le proprie abitudini ed è sempre interessante, sempre stimolante apprendere anche da loro quelli che sono a volte dei segreti così che magari non si riescono a vedere al di fuori del campo. Beh, allora entriamo subito nel mezzo dei nostri discorsi perché argomento caldo in termini di preparazione fisica è proprio quello che è successo all'Inter, no? Uno dei motivi che poi ha portato all'avvicendamento di Rafa Benitez con Leonardo in questo travagliato post Mourinho. Se ne sono sentite tante, quella che mi ha fatto sorridere di più e per cui vi chiedo subito la tua competenza è questo fatto che i giocatori dell'Inter durante la gestione Benitez se ne andassero di nascosto in palestra a fare gli esercizi all'insaputa di dirigenza e allenatore. Ma nel calcio professionistico di oggi ci dobbiamo credere? È possibile? Ma è chiaro che io non posso parlare in merito all'Inter in quanto non essendo parte dello staff nerazzurro non ho ben chiari quelle siano state le dinamiche che hanno portato a questo disagio di rapporto tra Benitez e la società. Quello che posso dire però sinceramente è che me l'aspettavo, nel senso che avendo visto un po' il passaggio della gestione Mourinho con Avan Grant, per esempio, le dinamiche sono state più o meno le stesse. Ricordo per esempio che al passaggio appunto della consegna di allenatore di Avan Grant, molti dei giocatori del Chelsea sono trovati disorientati. In quel periodo io in particolare seguivo Michael Essien oltre ad altri. Ricordo che lo stesso Ghanese ci mise 3 mesi per ritrovarsi, cioè da un punto di vista psicologico era abbastanza scioccato, anche perché è l'ultimo di 6 figli e senza il padre, quindi aveva trovato in José Mourinho quasi una sorta di padre naturale. E quindi mi aspettavo, ecco, queste difficoltà di gestione dal passaggio Mourinho a qualsiasi altro allenatore sarebbe poi arrivato. Ecco, però in un club professionistico di quel livello, insomma, il meglio che c'è al mondo, a me sembra impossibile che un giocatore possa in qualche modo anche allenarsi di nascosto rispetto allo staff che lo coordina. Cioè, nel senso, voi avete il controllo, credo, dell'intera giornata lavorativa del calciatore professionista e magari sapete anche frenare quell'istinto che a volte l'atleta ha di allenarsi di più anche per sentirsi più sicuro, no? Non è detto che sempre faccia bene, ma magari sai, più lavoro più mi sento sicuro. Mennea così ci ha perso una medaglia olimpica e lo sappiamo. No, sono d'accordo, infatti non è per esempio il mio modo di lavorare, anzi il mio modo di lavorare generalmente è quasi il contrario. Io tendo più a privilegiare quelli che sono i momenti ludici, tecnico-tattici, ma sempre inseriti in un contesto di divertimento, sempre in un contesto di possesso palla, quindi esercizi che includano sempre quella che è la replica di un momento di attività che può essere quello della partita. Questa è una metodologia che ho appreso, sviluppato, ma ho anche appreso in realtà in Inghilterra, perché gli allenamenti del Chelsea sono sempre stati questi. palla, divertimento e gioco. Tant'è che ricordo che all'avvento invece di Scolari nel Chelsea ci fu una sorta di piccola rivolta, perché le metodologie erano totalmente diverse, molto canoniche, molto rigide e diciamo molto molto forse antiche rispetto alle esigenze del calcio di oggi. Ecco, antiche vuol dire che, per capirci, per farci capire anche da chi ci ascolta, che noi quarantenni quasi immaginiamo un calcio che oggi non c'è più, no? Noi da ragazzi conoscevamo i grandi campioni, Platini, Maradona, Van Basten, eccetera, eccetera, che l'estate si facevano 3 settimane di ritiro, la Juventus faceva la classica amichevole a Villar Perosa e poi si cominciava il campionato. Ecco, eravamo giovani allora, ma quel calcio non esiste più dal punto di vista della preparazione fisica, o sbaglio? No, non esiste più, soprattutto riferito ai grandi club, nel senso che io penso che per esempio la Serie A debba essere divisa in 3 fasce, non da un punto di vista dell'importanza delle squadre, perché sono tutte importanti. Non è che ti candidi alla presidenza della calcio, perché qua la fila è lunga. No, chiaramente da un punto di vista dell'impegno atletico, quindi ci sono le squadre che giocano una volta alla settimana, ci sono squadre che giocano mediamente 2 volte alla settimana, quindi comprese le Coppe Italia, ma ci sono squadre che giocano quasi regolarmente 3 volte alla settimana, quindi la preparazione atletica non è univoca, non può essere uguale per tutte le squadre. Allora, prendendo in considerazione quelle di cui si stava parlando prima, tipo l'Inter, il Milan, la Juve, è chiaro che, per come la vedo io, l'allenamento vero e proprio è di per sé la partita. Quindi la partita è il momento in cui, da un punto di vista psicofisico, energetico, l'atleta è coinvolto totalmente e quindi dà tutto quello che ha. Ma nei momenti di recupero, che una volta si chiamavano allenamento, ci dovrebbe essere la possibilità dello scarico, quindi mentale, fisico in termini di defaticamento, in termini di allungamento muscolare, in termini di possesso palla che sia veramente finalizzato all'eliminazione delle tossine dalle strutture muscolo-tendine. E chiaramente in questo non riesco a vedere quelle che possono essere invece delle situazioni di utilizzo di sovraccariche. Per sovraccarica appunto intendiamo ovviamente l'uso di pesi e di quelle misure che erano proprie di una vecchia preparazione atletica. Quindi ecco, immaginate che quando sentite un allenatore che dice oggi i ragazzi hanno dato il massimo in allenamento, siamo forse sulla strada sbagliata. Interessante il discorso che facevi sui pesi, no? Perché oggi si sente di tanti giocatori, e a me questo è un discorso che manda un po' in bestia. Coutinho, bravo giocatore, ma adesso appena gli mettiamo addosso 7-8 kg di muscoli, allora sì che sarà forte. E il Flaco Pastore, un altro giocatore che apprezzo tantissimo, bravo, caratterialmente poi è un discorso a parte, però dice fisicamente è un giocatore di talento, però pure lì servono quei 7-8 kg di pesi adesso e poi sì che Pastore sarà. Ma servono per il calcio? Secondo me forse è meglio tenere sotto controllo quella sfera che hai tra i piedi. Sì, nel calcio attuale secondo me non sono necessari. Erano necessari in un calcio di data un po' più remota, laddove per esempio c'erano anche per esempio dei campi pesanti da sostenere, lì la struttura muscolare era essenziale anche per salvaguardare e preservare le articolazioni oltre ai traumi da impatto. Oggi invece io credo che il lavoro su cui bisognerebbe insistere è quello proprio della agilità, della velocità, e in questo diciamo che spesso quella che è la massa muscolare fino a se stessa può essere antagonista all'espressione di una massima capacità di movimento, dinamica, con minor rischio di infortuni. Quindi si ritorna un po' ai consigli che ci davano i nostri nonni, no? Quando ci avvicinavamo al lavoro anche in palestra finalizzata al calcio, cioè lavora col pallone, lavora col tuo peso, perché comunque quando alzi 70-75 kg già con i piegamenti già fai un buon esercizio, però insomma fermati lì, perché l'obiettivo è un altro, non è far la bodyguard. Infatti io sono poi abituato a considerare gli atleti, in particolare i calciatori, dei ragazzi che amano giocare a pallone, e in questo io credo che l'aspetto psicologico su cui bisognerebbe lavorare è molto importante. Io non posso pretendere da questi atleti delle performance da bodybuilders, oppure non posso pretendere delle performance da maratoneti. Sono persone che hanno voglia di giocare, appena vedono una sfera bianca col campo verde, 2 porte, iniziano a divertirsi, Io voglio che loro siano contenti sul campo e fuori dal campo, non li voglio tristi e affaticati. Certo, la gente direbbe, beh, con tutto quello che prendono possono anche sopportare, però il discorso è che a livello mentale non c'è una differenza tra divertimento perché prendi soldi, divertimento perché non prendi soldi. Io mi diverto perché c'è la palla, è questo, è una cosa che esula da quello che è il compenso o comunque il conto in banca. Certo, quel tipo di soddisfazione non può essere appagata da nessuna cifra a 9 zeri. E forse José Mourinho, correggimi se sbaglio, tu che ci hai lavorato, è stato il primo a capire questo aspetto postmoderno del calcio di oggi, no? Sì, senz'altro. Sia dentro al campo ma anche fuori dal campo il suo rapporto con i calciatori era un rapporto molto molto molto dinamico, fluido, quasi da amico, e anche all'interno, appunto, nel momento dell'allenamento c'era tutto ciò che comprendeva il gioco del calcio, e una parte col suo preparato atletico, che adesso appunto è anche al Real Madrid, ovviamente dedicata a una valutazione funzionale di test che però, come si diceva poc'anzi, rispettano più quelle che sono le esigenze di un ritiro precampionato, laddove ci dovrebbe essere il tempo di valutare le condizioni basiche dell'atleta a inizio stagione. Ora è chiaro che quello che invece è un discorso di necessità di sponsor, che spesso porta queste squadre, questi team, a fare delle tournée internazionali in agosto, va a smontare quelli che erano i presupposti del significato reale della preparazione atletica estiva. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo con Stefano Tirelli, preparatore atletico di tanti grandi club del calcio professionistico mondiale. Basti ricordare il Chelsea di José Mourinho e anche le nazionali del Ghana ai mondiali di Germania 2006 e dell'Inghilterra di Fabio Capello nell'ultimo mondiale di Sudafrica 2010. Prima della pausa dicevamo, Stefano, difficile organizzare il lavoro dal punto di vista atletico nel calcio attuale per i club di vertice, perché quello che era il tempo che si dedicava per la preparazione estiva adesso è spesso dedicato invece a tournée in giro per il mondo. Da questo punto di vista e da osservatore esterno, credi che l'Inter di Benitez abbia pagato anche questo dazio, visto che Mourinho sì aveva fatto la sua preparazione pre-triplete negli Stati Uniti, ma senza il dover mostrare al mondo quei trofei che poi ha saputo conquistare, no? Carico che invece Benitez ha dovuto assolvere. Ma io credo più che altro che l'Inter abbia pagato il fatto di aver dovuto lottare su tutti i fronti fino all'ultimo. Quindi, avendo dovuto, fortunatamente per l'Inter, poi vincere la Coppa Italia, la Coppa del Mondo per clubs, lo Scudetto, piuttosto che la Supercoppa italiana, è chiaro che tutto questo, nell'insieme, da un punto di vista mentale e fisico, ha comportato un dispendio energetico massimale. Allora, un conto è, come dire, ritrovarsi ad un pre-campionato, anche andando a fare le tournée con le pile cariche. Un conto è dover fare compiere questa tournée con le pile scariche, come credo siano arrivati alcuni dei giocatori. E il Benitez della situazione non ha potuto far altro che raccogliere i cocci di questo ottimo lavoro, di queste ottime soddisfazioni conquistate, che però io credo qualsiasi allenatore avrebbe pagato. Io non posso, credo, dare la colpa, tra virgolette, a Benitez o al suo staff. Magari, forse, sicuramente avrei dato una sorta di preferenza a un lavoro defaticante, quasi una sorta di rivoluzione. Cioè, all'inizio, anziché caricare, avrei scaricato, perché la stagione dell'Inter è stata speciale e unica. Non è stato usuale. Eh sì, assolutamente, soprattutto poi nella stagione che è stata seguita dal Mondiale, no? Quindi altre tossine per i giocatori che rappresentano il top al mondo. Mondiale, mi viene in mente chiaramente l'Inghilterra di Fabio Capello, tu ci hai lavorato, ma insomma, ma questi inglesi veramente arrivano spompati sempre a questi appuntamenti importanti, ogni volta Inghilterra, stavolta in Sudafrica vince perché c'è Fabio Capello, eccetera, eccetera, con la lingua di fuori sono arrivati. Che facevate, gli zabaglioni per tirarli su sti ragazzi? Lampard, Rooney. Ma diciamo che questa volta il discorso era un po' diverso, nel senso che sicuramente molti di questi giocatori sono arrivati da campionati FA Cup piuttosto che Champions League molto molto intense fino all'ultimo. Quindi noi abbiamo avuto solo 2 settimane neanche di pausa tra la fine delle varie coppe, parlo per noi tra virgolette di quella che è stata la stagione del Chelsea. con l'inizio del ritiro in Austria per quanto riguarda invece la nazionale inglese. È chiaro che poi ci sono state delle situazioni che andavano oltre quello che era il rettangolo di gioco, erano scandali, diciamo, che turbavano un po', io credo, le menti di alcuni giocatori di cui tutti siamo a conoscenza, no? Quelle che sono state un po' delle dinamiche, secondo me, molto di disturbo da un punto di vista mentale. Io lavoro tantissimo sull'aspetto mentale, sul mio lavoro, e credo che sia veramente il driver della nostra macchina. E se il driver è poco lucido, la macchina non può che sbandare. Quindi tutto il lavoro ben fatto da parte di Capello e magari anche di noi dello staff, credo, non ha potuto avere riscontri laddove si lavora con situazioni in cui non c'è l'optimum in termini di efficienza mentale e quindi fisica. Insomma, queste WAGs non solo bisogna tenerle in un altro albergo, ma proprio a casa se si vuol vincere qualcosa. Sicuramente. E Stefano Tirelli ha detto tutto con questo avverbio. Beh, direi che invece ti chiedo, visto che tu lavori, hai lavorato e probabilmente tornerai a lavorare, adesso fra poco ce lo dirai, con molti campioni africani e con molte squadre di vertice del calcio africano. Da questo punto di vista i giocatori africani sono cambiati, sono maturati, è più facile l'esperienza che fanno in Europa, anche sotto il profilo della preparazione fisica, li sta cambiando, perché da tempo ormai aspettiamo l'esplosione di questo calcio e Sudafrica 2010 in qualche modo ha dato risultati contraddittori, no? Ghana a parte. Ma io credo che dal punto di vista soprattutto tattico loro stiano migliorando, da un punto di vista direi fisico sono senz'altro molti di loro avvantaggiati, dico molti perché è chiaro che a seconda della provenienza del paese africano si hanno delle strutture muscolari diverse, è chiaro che un magrebino ovviamente è differente da un giocatore del Centro Africa piuttosto che del Sud Africa, si parla di un continente, quindi di diverse tipologie muscolo-tendine, di situazioni anche genetiche. Io credo sinceramente che a questo punto ci siano delle nazionali come quella del Ghana e eventualmente nel futuro anche come quella della Costa d'Avorio che sinceramente avranno delle carte in regola per poter competere fino all'ultimo, in quanto ormai passano tutti questi anni e quasi tutti questi giocatori giocano nella Premier League, giocano nelle più grandi competizioni a livello europeo, e questo non può che portare per loro un miglioramento da un punto di vista dell'apprendimento tecnico-tattico e della mentalità anche, perché è chiaro che questo nel mio passato, diciamo, che ha visto col Ghana, con la Nigeria, con la Libia, con altre situazioni africane, ho sperimentato delle situazioni simpatiche, ma magari un po' lontane dal nostro punto di vista in termini di così atteggiamento professionale, anche se sono tutti molto molto molto bravi come ragazzi ovviamente. Ti incuriosisce invece l'Asia? Siamo freschi della vittoria del Giappone di Zaccheroni nella Coppa d'Asia nel 2022, addirittura i mondiali sbarcheranno in Qatar e là c'è tutto un altro capitolo per preparazione atletica che magari ti vedrà protagonista, ma credi che questo calcio asiatico ha le caratteristiche fisiche per poter essere competitivo ai livelli più alti? Non credo, io ho lavorato sia con la nazionale del Qatar che con quella degli Emirati Arabi. Per esempio col Qatar io ricordo di aver incontrato per le qualificazioni dei mondiali proprio il Giappone, e il Giappone è stata la squadra che mi ha maggiormente impressionato, proprio per la loro capacità di fraseggio, e a livello fisico erano ben preparati, anche se da un punto di vista della loro costituzione fisica, costituzionalità fisica, non sono chiaramente paragonabili a quelle che sono delle strutture atletiche degli europei piuttosto che dei sudamericani. Io credo che siano un po' lontani loro in questo senso. L'unica nazionale che vedo in questo momento vicina ai livelli europei è quella proprio del Giappone, che in modo egregio Zaccheroni ha portato alla conquista della Coppa d'Asia. Ritengo che in realtà poi ci siano altre motivazioni che spingono i giocatori a dare il massimo. E molti di questi atleti asiatici, parlo dei paesi ricchi come quelli del Qatar, degli Emirati Arabi, hanno di per sé delle facilitazioni a livello economico, a livello di infrastrutture, a livello di privilegi che poche altre situazioni, altre realtà hanno. Quindi a parità di motivazione un africano o un europeo emergente credo che possa dare di più rispetto a questi giocatori che vivono il calcio come un qualcosa in più della loro vita, ma non la loro vita. Insomma, avete capito che si starebbe per ore qua con Stefano Tirelli a parlare di calcio e di tutti i calci nel mondo che lui ha conosciuto. Stefano, allora è inevitabile salutarti chiedendoti però quali sono i tuoi prossimi progetti, perché da giramondo quale sarà la prossima meta pallonara che ti sei prefissa? Sto concentrando la mia attività nel mio studio a Milano con l'Università Cattolica dove insegno. Sto sviluppando nuove metodologie di allenamento sia a livello fisico, mentale e energetico, quindi le tecniche complementari stanno implementando le loro conoscenze e spero poi adesso di capire dove vorrò poi inserirle e renderle utili in nuove realtà. Beh, allora, noi intanto ti facciamo un grande in bocca al lupo, chiaramente l'appuntamento rinnovato è quello di rivenirci a trovare sempre qui nello studio di A Bordo Campo, e intanto grazie di essere stato oggi nostro ospite. Grazie a voi ed è sempre un grande piacere per me venire qua con voi, grazie. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci tramite il nostro sito internet www.radio24.it, scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul sito internet di Radio 24. L'appuntamento è per domenica prossima, come sempre alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Una buona giornata da Dario Ricci.